Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, partiamo da una notizia che ci arriva da oltreoceano questa sera. La notizia è che è nato in America il più grande orto aziendale del mondo. 93.000 metri quadri sul tetto di un edificio a Brooklyn dove si produrranno 4.300 quintali l'anno di verdura, che insomma non è niente male. Abbiamo già dedicato altre puntate agli usi alternativi di questa immensa superficie antropizzata e largamente ignorata che sono i tetti e più in generale le coperture degli edifici, sia quelli civili sia per esempio i capannoni industriali. Quella dell'orto aziendale è un po' l'ultima moda, ma lasciatemi dire, ce ne fossero di mode così, che sembra unire la filosofia del chilometro zero con la possibilità per esempio anche di consolidare i rapporti umani in un'azienda. Di tutto questo ci parla Chiara Albicocco, sentite. Il New York Times dice questo: è l'ultimissimo trend nell'America della crisi economica. Per tirare sul morale degli impiegati, le compagnie che non possono più permettersi aumenti salariali, viaggi premio e bonus hanno inventato un nuovo benefit: l'orto aziendale. La Toyota, la Pepsi, per fare alcuni nomi, la Timberland, Google e anche Yahoo ci hanno già pensato di sfruttare proprio i prodotti dell'orto per sfamare i propri dipendenti a chilometro zero o anche per farli lavorare durante la pausa pranzo, come diversivo, come passatempo. Persino i tetti dei supermercati londinesi si stanno trasformando in orti a chilometri zero. E invece in Italia come siamo messi? Ebbene, stanno arrivando. Un segnale positivo ci arriva dalla nascita di una società Onlus, dal nome evocativo, Orti d'Azienda. Intanto diamo il benvenuto al presidente, Umberto Puppini. Buonasera. Buonasera. Inquadriamo il contesto. Orti e serre che nascono tra le mura aziendali negli Stati Uniti sono una certezza, in Nord Europa stanno arrivando, in Italia? In Italia siamo agli esordi, direi, non si può dire che nulla stia accadendo, anzi, qualche cosa abbiamo incominciato già a fare, abbiamo avuto la possibilità di costruire un orto che riteniamo essere il primo orto d'azienda a Milano nell'ambito del Fuori Salone a Lambrate, e un tetto di un terrazzo è stato trasformato da abbandonato che era in orto, che verrà poi gestito dai collaboratori delle gallerie d'arte e degli studi di design che operano nello stabile. Ecco, questo è quello che avete fatto, però fornite anche consulenza per chi appunto volesse creare un corporate garden, come dicono negli Stati Uniti, proprio un orto aziendale vero e proprio. Dunque, noi siamo una Onlus e questo va detto a chiarissime lettere, perché lo scopo che noi proponiamo è uno scopo sociale. Noi vogliamo diffondere la cultura della filiera corta, farla condividere a tutti i livelli, quindi a livello del datore di lavoro che può concedere uno spazio ai propri collaboratori, ai propri impiegati o ai propri operai se lo desiderano, soprattutto a coloro che non hanno la fortuna di avere un piccolo spazio da dedicare perché l'orto urbano dato in concessione dal comune ha elenchi troppo lunghi per poter soddisfare questa necessità o per altri vari motivi. Quindi si crea una sinergia tra datore di lavoro e collaboratore nell'attività, con al centro l'orto, la produzione di cibo, l'autoproduzione di cibo. L'Onlus è uno strumento che serve ad autoprodurre cibo. Si tratta non certo di sfamarsi, non possiamo illuderci che questo accada. Esistono Onlus simili negli Stati Uniti che dicono che se si raggiunge il 5% della copertura del fabbisogno reale con un orto si ottiene già un grande risultato. In realtà sappiamo benissimo che in tutte le città del mondo molte persone sugli orti sopravvivono letteralmente. In contesti urbani questo sarebbe illusorio, è un messaggio che non vorrei trasmettere. Viceversa, il messaggio che posso trasmettere è che si condivide del tempo libero al di fuori dell'orario di lavoro in un contesto aziendale, si costruisce coesione e si fa condividere i principi della filiera corta magari anche ad attività che con la filiera corta per necessità non hanno grande dimestichezza. Ecco, questa è una delle filosofie che tra l'altro sposa benissimo, leggo qua il senior manager di Pepsi Cola, che dice: zappare la terra insieme incoraggia ad abbattere le gerarchie in ufficio, nell'orto siamo tutti allo stesso livello, e quindi un po' quello che diceva lei. Però è anche vero che le grosse multinazionali in effetti utilizzano i prodotti, mi sembra, se non sbaglio, nelle proprie mense all'interno dell'azienda. Negli Stati Uniti questo, ecco, sicuramente accade, bisogna ovviamente poi poi confrontarsi sempre con le realtà locali. Assolutamente. Ecco, vede, anche il semplice beneficiare di un prodotto che io ho coltivato in ambito azienda, e noi nel nostro ufficio lo facciamo, certo, è più che sufficiente. L'ambizione di rifornire una mensa, quella la metterei un po' più in secondo piano. Ok, e senta, io ho una curiosità, gli ortaggi o la frutta, insomma, che crescono in questi contesti, quindi in città o anche in zone industriali, che magari sono un pochino inquinate o che hanno comunque un tasso di traffico. Ecco, volevo chiederle, sono comunque di buona qualità, non influiscono sul raccolto, chiamiamolo così? Dunque, è evidente che la precondizione perché questo possa accadere, la precondizione è che ci siano le condizioni di salubrità. È ovvio che trattandosi di autoproduzione il problema riguarda la persona che dedica tempo alla produzione nell'orto e che ne beneficia direttamente, non riguarda ovviamente terzi. No, però la qualità, diciamo, la qualità è una cosa che si verifica in fase preliminare per andare a vedere dove coltivare gli ortaggi. Ah, ecco. È naturale, quello è indispensabile. E poi anche a posteriori. Voi incentivate l'uso di questo tipo di orti in anche spazi ridotti, però diciamo che tutti gli spazi dei tetti, ad esempio, che noi abbiamo sopra le nostre teste, nelle nostre aziende, nelle nostre società, potrebbero essere sfruttate in questo senso. Ci stanno pensando anche gli svedesi, una catena di supermercati londinese, cioè lo sfruttare queste superfici che comunque noi abbiamo, appunto ci darebbero la possibilità di avere quasi il doppio del terreno che abbiamo a disposizione per coltivare i nostri ortaggi, le nostre frutte. Giustissimo, i tetti si prestano purché siano predisposti per poter ricevere la terra su cui si coltiva e poi l'acqua per l'irrigazione, ma sicuramente sono superfici normalmente abbandonate, molto esposte alla luce, al sole, alla pioggia, e quindi senz'altro sono spazi utilissimi. Per gli orti sicuramente si tratta di un recupero di spazio e quindi anche di un messaggio ulteriore lanciato in direzione della riduzione del consumo di suolo laddove è possibile. Bene, per stasera ci fermiamo qui. L'appuntamento con Smart City è a lunedì prossimo. Buon fine settimana.